24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. E siamo qui tra passerotti e tacchini alle 6:33 minuti. Buongiorno e ben ritrovati con una nuova puntata di 24 mattino. Siamo in diretta come sempre fino alle 9. E il consigliore rimane anche quest'anno, ovviamente. But please relax. Perché, ragazzi, sempre più una campagna elettorale. Oh, esondano dovunque, soprattutto Berlusconi e Monti. Io l'ho messa così ieri su Twitter, Berlusconi, ieri dalla Gruber, oggi Porta a Porta, domani Santoro, venerdì muore, domenica risorge. Ecco, più o meno è questo. Ma anche Mario Monti un po' dappertutto, sono i due più visibili. L'altro ieri ho visto anche Bersani dalla Gruber, insomma ormai siamo... Nel pieno della campagna elettorale, anno nuovo, vita vecchia, è mercoledì. E allora voglio salutare Luca Dini, il direttore di Vanity Fair. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno e buon anno a tutti. Così come saluto Paola Saluzzi, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno e buon anno Alessandro. Grazie. Buon anno direttore. Alessandro, meno male che sei tornato, così studio bene la politica con te prima di andare al lavoro. Ah sì, studi. Sono molto contenta che tu sia ritornato. Bene. Perché tu ci capisci qualcosa della politica, di quello che sta succedendo? Quando la studi tu un po' di più, devo dire. Ti ringrazio per questa sviolinata, ovviamente falsa. No, scherzo. È vero, no, capirci qualcosa è dura, devo dire. Però sì, in questi tempi la guerra, e quindi vediamo tutto quello che c'è in giro. No, vabbè, intanto si capisce che si candidano in molti, ci sono state le ultime candidature, anche... Allora dobbiamo salutare Mario Sechi, direttore del Tempo, si candida con Monti. Poi c'è Valentina Vezzali, ve le siete perse queste, Luca Dini? Valentina Vezzali, quella... No, non ce la siamo persa. Ecco. Anzi, facciamo, perché adesso metto scompiglio subito Valentina Vezzali, era un file che era previsto dopo, ma lo voglio subito. Valentina Vezzali, il nostro Peter Bescapeli, è già pronto insieme alla nostra Miriam Lucchetti. Valentina Vezzali, vi ricordate? Campionessa olimpionica, quella che una volta incontrò Berlusconi a Porta e disse: io non potrei mai, nemmeno con un fiore. Presidente, io da lei mi farei veramente toccare. Avevano il fioretto in mano, Luca, te la ricordi? Avevano il fioretto in mano, mi farei toccare da Berlusconi. E si candida con Monti, vabbè. E comunque ha dichiarato Valentina Vezzali, credo oggi al Corriere: ora devo studiare l'agenda. Ecco, questa è la cosa più importante. Ma soprattutto, dicevamo, i combattivi. Paola Saluzzi, Berlusconi, quando è che lo inviti? Viene da te Berlusconi? Assolutamente, verrà. Presumiamo di averlo ospite molto presto. Adesso oggi abbiamo Bersani, è stato ospite con Gianluca Semprini, devo dire. Certo. Ma oggi hai Bersani Gianluca. Ah, okay. Gianluca Semprini è la nostra firma, ha seguito lui tutte le primarie, segue lui queste interviste politiche, stanno venendo tutti. Però. Ma come no, l'ho visto Berlusconi che gli ha fatto un cenno a un certo punto durante la pubblicità, come dire, ma che domande mi fai? No, vabbè. Che domande mi fa? Vabbè. Insomma, ma scontiamo di averli tutti prossimamente al pomeriggio di Sky, e comunque nell'arco delle nostre 24 ore. Passeranno, voglio dire, stanno andando ovunque, passeranno. È chiaro, si parla ovviamente soprattutto di tasse. Allora, sentite Berlusconi quanto paga di IMU. Io, per esempio, che ho delle case, per fortuna, che sono piuttosto grandi, vaste, eccetera, continuerò a pagare l'IMU, quindi non... Quindi lei quella tassa per i patrimoni immobiliari resterebbe. Io, per esempio, oggi mi sono accorto di quanto ho pagato personalmente sulle case di mia proprietà dell'IMU. Avrà pagato un bel po'. Quanto ed è una pagato? Cifra abbastanza importante, 300.000 euro. 300.000 euro! Luca Dini, 300.000 euro! Ma però, vabbè, sappiamo le case, la villa. 300.000! E insomma, ieri Mario Monti, abbiamo scoperto da Repubblica, che ha fatto i conti in tasca. Mario Monti si è rifiutato, ha detto, lo sa mia moglie. Però Repubblica ha scoperto che paga 23.000 euro lui, e Rotti, e 8.000 la moglie. 300.000 euro, insomma. Però è stato molto elegante a dire, lo sa mia moglie. È stata una scena bella. È stato elegante, invece di fare le cifre, ha detto: eccola, a casa dei conti li gestisce la mia signora. Eccola, quella del focolare. Insomma. Vabbè, 300.000 euro. Sentite ancora invece, questo è un gran classico sugli alimenti che deve pagare alla ex moglie Veronica. Il Tribunale di Milano ha stabilito che lei paghi 100.000 euro al giorno alla sua ex moglie Veronica. Lei non Veronica è informata, Lario. Sono 200.000. 200.000 al giorno? Sì. E questo le dice chi sono i signori, i giudici di Milano. 200.000. Tre, ecco, no, ma le voglio chiedere, questa è la parola fine? Scusi, è la fine? No, la parola c'è, fine l'appello, sulla sua... c'è l'appello, ma veda dove come lei sono... cercherà di ridurre. Senta, questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra, no? Allora, sono tre donne, tre giudici donna, femministe e comuniste, le basta? Eccolo lì, femministe, ha aggiunto, qua c'è dal giornale, direttore, femministe anche, in genere siamo sempre i giudici comunisti. In questo poi caso. Pare che abbia detto giudichesse, giusto? Giudichesse, direttore. Beh, almeno voglio dire, sai che c'è questa battaglia anche lessicale, no? La consigliera, la presidenta, esatto. La ministra, almeno questo, giudicesse comuniste. Vi faccio sentire, vabbè, alla fine con Lilli Gruber, non so, avete capito, da ieri c'è stato proprio, a un certo punto gli ha detto anche vuole il numero del mio Torino laringoiatra, Lilli Gruber, perché lei non sente quello che dico, e poi è finita così. Ecco, io le devo posso chiudere, dire le che posso... il suo modo di fare televisione non... No, adesso abbiamo fatto una conversazione adesso glielo dico, non è obiettivo, perché lei ha occupato questo tempo soltanto portandomi domande che erano attacchi. Credo che questo giovi alla suo ascolto. Erano delle domande. Non credo che questo giovi al suo ascolto e non credo che questo giovi alla considerazione che di lei possono avere i suoi spettatori. Sì, ma onorevole Berlusconi, erano delle domande e in un'ora di trasmissione lei ha avuto modo di dire, di parlare di tutto, sì, anche di quello che lei ha fatto. Ma lei ha fatto lo di so tutto che lei è un lottatore. Lei è un lottatore ed è emerso sa dove in modo vado, molto giovedì, chiaro. Vado addirittura da Santoro. Santoro. Contro il mio amico Travaglio. Ecco, no? Ecco, questo volevo lasciarglielo, ma non glielo lascio perché sono Berlusconi infuriato. Ma allora io vi chiedo, tra poco vi faremo sentire anche Monti perché siamo in bar condicio, siamo al nostro bar condicio, l'abbiamo soprannominato così. Luca Didi, allora, da queste trasmissioni televisive che cosa capiscono secondo te gli italiani? Si fanno un'idea, se hanno una formazione di convinzioni che poi aiuteranno a votare oppure per ora si stiamo a delle telerisse? Secondo me è più vera la seconda, nel senso che chi ha un'idea già abbastanza formata se la rafforza. Non mi pare che servano a far cambiare idea alle persone queste non le chiamerei nemmeno interviste, sono più performance. La verità è che è vero che c'è prevenzione su Berlusconi, come è normale quando una persona è presente nella scena politica da 20 anni, e io trovo insomma che sarebbe veramente molto più utile che ci fosse un confronto serio, un dibattito aperto, senza paletti, sulle cose che non sono state fatte e spiegare come si pensa di farle da oggi in poi. Ma è un po' il contrario di quello che è la campagna elettorale. Cioè, da un certo punto di vista, bisogna dirlo anche agli ascoltatori, la campagna elettorale è fatta di promesse. Cioè, che cos'è in fondo la politica? Si promettono delle cose. Il problema, appunto, tu dici, è che poi magari chi le promette è stato già il governo. Però questo sta nel giudizio poi degli elettori, o no? Paola, tu che ne pensi? Ma forse il grande cambio, ha ragione il direttore Dini, dovrebbe essere quello di cominciare a parlare di futuro, ma non con faremo, saremo, diremo, cioè confrontare perché non è stato fatto finora e che cosa verrà sicuramente realizzato. Cioè, perché questo, scusatemi, è una campagna elettorale che necessita di proporre sicuramente sul tavolo cambiamenti, perché è una campagna elettorale del dopoguerra, cioè questa è una situazione drammatica nella quale si trova il nostro paese, adesso serve sapere quali cantieri andremo subito ad aprire. Quindi voltarsi meno indietro, dire meno quello non è stato fatto, quello non è stato fatto, quello non è stato fatto, ma dire che cosa sia subito in grado di realizzare. Per esempio, potrebbero essere un po' più pratiche. Un po' più pratiche, ci si arrovella poi sulle solite questioni, effettivamente sui programmi si entra poco. Per esempio, sulla questione delle tasse, è uno degli elementi che sarà molto in discussione. Sentiamo ieri Mario Monti, era credo a TG Com 24. Cerco di mettermi dalla parte dei cittadini, dice ma come lui che ha aumentato le tasse adesso dice che forse si potrebbero ridurre. Già, lui ha dovuto aumentare le tasse perché alcuni irresponsabili avevano portato il paese a quella situazione, ma è ovvio che questo, adesso che il paese diciamo è salvo da questo punto di vista, c'è una prospettiva di riduzione delle tasse. Questa è Luca Dini. Alcuni responsabili avevano portato, anche Monti col suo aplomb butta degli delle bordate mica male. Adesso lui, a parte che parla di center, lui poi era lui. Devo dire, come spesso succede, Monti dice secondo me la verità. Il problema forse dovrebbe essere di spiegare che ci sono alcuni di quelli irresponsabili che sono i nostri politici. Bisognerebbe cominciare a promettere che da stamattina paghino anche loro, perché anche se i famosi costi della politica sono una goccia nel mare dei problemi dell'Italia, c'è anche una cosa che si chiama esempio, e lì devo dire nessun governo, compreso questo, è stato incisivo. Fa un po' effetto sentire parlare di Mario Monti di tasse. Giustamente lui capisce di essere il premier che, lui dice, per necessità, perché il paese stava andando allo sbaraglio, ha dovuto aumentarle queste tasse, ha dovuto prendere dei provvedimenti che per gli italiani sono stati molto impopolari. Adesso Paola si presenta come quello che le tasse le può abbassare. Però scusatemi, senza scendere in difese di nessuno, se tu hai dovuto fare anche perché c'è la par condicio, hai dovuto aprire, tagliare, operare perché c'era una malattia, sì, e poi dici ok, adesso però cerchiamo di fare una cura che non porti più il malato in sala operatoria, non ti si può accusare di essere stato il chirurgo? Cioè, nel senso, è troppo facile. Questa è molto di Pietrese. Non ce la può prendere col chirurgo che toglie la cosa, ma con la malattia. Di Pietro l'avrebbe detta così, l'ha detta varie volte. Però è vero. No? Sì, è strano che gli italiani, che sanno perfettamente nella gestione familiare che cosa significhi essere indebitati, che cosa bisogna fare per uscire da una situazione di debito, mi sembra strano che lo stesso discorso non sia comprensibile a livello delle casse della nazione, perché è questo il discorso. Bravo. Però io devo dire, quella cosa sicura, Paola, che ha fatto davvero bene sulla questione dell'IMU, a dire, cioè, se ne occupa mia moglie. Guarda che per molti è apparso un'idea, come dire, sempre del solito distacco dal paese reale. No, non so neanche quanto. Una frase bellissima. Vabbè, però non so neanche quanto pago di IMU. È un po' una cosa, no? No, è una cosa di cui si è occupata mia moglie. Cioè, anche questo cercare a tutti i costi la cifra, chiede, è giusta da una parte, però la cosa importante è che l'abbia pagata, non so come dire, cioè quello che conta è che l'abbia pagata. Io sarò anche troppo innamorato del concetto di famiglia, ma l'ho trovato così paterno. Ci mancherebbe altro, Monti evasore fiscale, questa sarebbe stata incredibile. Comunque, tra l'altro, molti giornali aprono proprio su anche l'IMU, che è stata contestata dall'Europa. Non è che l'Europa ha detto l'IMU è una tassa sbagliata, è una tassa che va rimodulata, soprattutto perché non si paga in base a quanto uno guadagna, perché soprattutto si rifà agli estimi catastali di tanti anni fa, e dunque l'Unione Europea ha bacchettato l'Italia su questo, su un IMU poco equa. Ma poi approfondiremo in rassegna stampa. Ora le informazioni sul traffico. 24 mattino. Buongiorno Milan, volevo dire che la gente che ha lavorato 35-40 anni doveva andare in pensione ai mio amico Berlusconi e mio amico Maroni, e le donne 55 e gli uomini massimo 60 anni pensione. Milan, hai visto il nostro caro amico Vendola? Si è tolto la maschera e con le ultime dichiarazioni ha dimostrato di essere un violento demagogo. Lui, ricco e privilegiato, questi sono quelli che ci vogliono governare. Bravo, bravo. Non lo manderai mai in onda. Ma quando voi giornalisti smetterete di farvi prendere per il culo come tutti noi da questi politici? Ma perché non l'hai mandato a fare a quel paese quando voleva importi le domande? Ma che giornalisti siete? Ma nervo, ma sapete che vuol dire avere un po' di nervo? Ma non lo so, ma cambiate mestiere, è una roba vergognosa, caspita. Mila, sveglia! Buon anno a tutte le agende. Nelle agende hanno messo il dimezzamento dei deputati, hanno messo l'abolizione delle province. Buon anno ancora, ciao. I forconi dobbiamo prenderli noi, i forconi. Lei lo dice, ma noi dobbiamo prenderli sul serio. Buongiorno. No, no, per carità, per carità. Mai sul serio. Credo, siamo con Paola Saluzzi di Sky TG24 pomeriggio. Siamo con Luca Dini, direttore di Vanity Fair, l'ascoltatore che ce l'aveva con me, era credo per l'intervista ieri di Maroni. Il nerbo, il nerbo. Vabbè, favore, mostrerò più nerbo la prossima volta, al prossimo che ospito, chiunque sia. Oggi chi abbiamo, vediamo. Ho Piero Grasso alle 8:15, una zanna alla giugulare. Zam! No, no, no. È il primo che mi è capitato, insomma, non che ce l'abbia con Pietro Grasso, però sarà il nostro ospite alle 8:15. Allora, oggi vedo sul numero di Vanity Fair, ecco, vedete, c'è Gianna Nannini, un grande ritorno, mi ricordo la famosa copertina, no, di Gianna Nannini incinta, fece molto scalpore, Luca, me la ricordo ancora. Dai, 54 anni. Infatti, torna a parlare, parla anche dell'Italia, proprio della politica, di quest'Italia, com'è che la definisce nell'intervista? È un'Italia non molto bella, mi sembra. No, parla di una seconda repubblica che è fondata sostanzialmente sulla violenza, l'intolleranza, il razzismo e l'omofobia, anche insomma, però un po' quello che di cui parlavamo prima, insomma, la rissa, ecco, il duopolio come semplice attacco del nemico. Sì, non riusciamo a essere. C'è un paese così sempre un po' rissoso. Già lo siamo normalmente, figurarsi adesso in campagna elettorale. Non siamo costruttivi. Vogliamo essere costruttivi, ma non costruttivi. Qua ci vorrebbe Forchielli da mandare. Siamo feccia, come ogni tanto ci interviene. Dice, siamo feccia. No, vabbè, più o meno, no, non è la stessa cosa. Intanto, però, visto che si parla di spese politiche, eccetera, allora vi voglio dire che in Regione Lombardia ora stanno scandagliando i conti dell'opposizione. Allora ci sono, è straordinario, il consigliere Carlo Borghetti si è fatto rimborsare con 9.360 euro la stampa del volume I miei primi 2 anni da consigliere regionale. Mani sul volante! Io questo libro lo vorrei autografato e con dedica. I miei primi 2 anni... Cioè, come dire, le mie prigioni, io voglio le mie prigioni sul comodino di Pellico e i miei primi 2 anni di consigliere regionale di Carlo Borghetti, che avrà fatto mai in 2 anni di consigliere regionale. Intanto ha scritto un libro, scusa. Sì, ha scritto un libro. È già un argomento, ha posto le sue... i suoi pensieri su carta e poi insomma acquisti di mimose, di rose per la festa della donna, per carità, tutto bello, tutto giusto. Non sono certo le cifre di centinaia di migliaia di euro, come volano cifre magari da 900 euro, 1000 euro, ma la questione è sempre questa. C'è qualcuno che dice di tagliare tutte queste spese? Non si sa, è scomparso questo discorso. Non so, Luca Dini, siamo adesso presi ad altre cose, ma questa... No, la questione è che in un paese serio una persona dovrebbe perdere la carica per una fotocopia fatta per uso privato, una semplice fotocopia. Come avviene magari in qualche paese, insomma. Però, ma sì, perché in questa situazione drammatica, appunto, ribadisco, è questione di esempio, non è ipocrisia, è questione di rispetto dei cittadini. Questo sì, effettivamente. Noi ne parliamo alle 8:30. Sì, 960 euro per piccoli regali ai 24 dipendenti dell'ufficio. Come non fare dei regali per qualche consigliere? 1700 euro per celebrare la festa della donna. E beh, qui Paola dovresti essere contenta. No, a parte che sono furiosa, ma voglio dire: no, come sei furiosa? Il problema non è tanto i 1700 euro per la mimosa. Il concetto è che tutte queste persone hanno uno stipendio. Se Alessandro Milan o Luca Dini vogliono fare un regalo a delle persone della propria redazione, io credo che vadano a pescare nel proprio portafoglio e nel proprio stipendio. Allora, sulle piccole cose, definiamole piccole, non si può brandire lo scontrino fiscale o la ricevuta come un mi è dovuto rimborsare. Ma perché succede in Italia? Perché ciò che è pubblico viene considerato perché? Di tutti e quindi di nessuno. La cosa pubblica è a questo punto considerata una giungla. È di tutti e quindi di nessuno. E beh, come il debito pubblico. Certo. È di tutti e quindi di nessuno. È di tutti noi. No, ma infatti la questione è questa. Però io adesso devo fare ingelosire Paola Saluzzi. Sì. Io devo dire una cosa su Vanity poi, è una cosa importante. Sì, ma... però io ti devo fare ingelosire perché non sei la Paola che più mi tiene nel cuore. C'è una Paoletta di... Modà, sono già solo su Radio Italia, solo musica italiana. È entrata Radio Italia, Paoletta di Radio Italia. No, ascolta, adesso sono due anni che lavoriamo insieme. Gli ascoltatori ci seguono. Non è carino in onda. Ma non solo non c'è per queste te cose i bacini, private, Patrick. No? Ma non sono per te. Ale. Cos'è? Alino. Ale, Milan. Va bene, allora per quanti hai di capito, voi... Hai capito, Paola Saluzzi? Venerdì. Qua. Ma voglio dire, ma Paoletta, la vedo in controllo, scelgo io l'arma. No, Paoletta, ma, no, adesso ma, no, non fare... Ma non, alle spalle del convento, non fare alle la finta, 6:30 del mattino... Non fare la finta gelosa, senti Paoletta di Radio Italia. Siamo di nuovo in diretta noi. Sì, siamo in diretta, abbiamo riassunto quello che è successo. Quello che è successo su Radio 24 ieri. Ma sì. Paolo, gentilmente, mi fai una telefonata? Cosa stai facendo? Chi chiami? No, sto chiamando Alessandro. Ah, lo chiami in diretta, veramente? Sì, ma Alessandro, il tuo fidanzato, no Alessandro Milan? No, Paoletta. Ma che sei fuori vabbè. Questi sono i nostri esperimenti di meta radio, di cross radio, no? Hai capito, Paola Saluzzi? Bravi. E questo è, e bravi, senti già tutta stizzita. Che cosa devo fare? Perché radio non vedi la faccia, perché forse a quest'ora del mattino è meglio, ma chi può dirlo? Io volevo Ce l'hai con me. Alessandro, non avresti potuto aprire in un modo più valengo e per farmi ingelosire, proprio questo è stato il modo peggiore. Ecco, vabbè. Infatti. Provo a cambiare argomento. Volevo ricordare le chemi avventure di Wondi. Voi sapete che per me è un appuntamento formidabile da sottolineare ogni volta che ci sentiamo. Bravo Vanity Fair, andiamo su carta e mandiamo avanti il progetto di questa donna eccezionale. Che scrive cose per tutti noi, uomini e donne. E allora, tra l'altro, io nel ringraziarvi, direttore, grazie, vi ricordo anche che oltre a Gianna Lannini trovate un bel reportage, perché a me piace sottolineare anche le cose che sono legate all'attualità. Un anno dalla tragedia del Giglio, su Vanity Fair trovate questo articolo. Sì, esatto, l'hai sentito, direttore, mi hanno trattato peggio di Bin Laden, ha detto Schettino alla stampa. Però guarda, invece noi abbiamo scelto di non parlare di Schettino, parliamo soltanto delle vittime. Ci sono chi sono queste persone che sono morte, i loro sogni, le loro speranze infrante, erano lì per fare una crociera. Un anno dal Giglio, lo trovate su Vanity Fair con in copertina Gianna Nannini. Grazie, vi devo salutare, sono di corsa a Paola Saluzzi e Luca Dini, ci ritroviamo settimana prossima. Eccola lì. Vabbè. Arrivederci direttore, saluto direttore di arrivederci Milan, me lo saluti. Ecco, infatti, ci sentiamo dopo il GR delle 7. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. E allora, eccoci, sono le 7:20, siamo pronti a leggere i giornali. Vi ricordo gli ospiti che avremo più avanti alle 8:15. Sarà con noi Pietro Grasso, candidato al Partito Democratico, procuratore nazionale antimafia in aspettativa, e poi parleremo delle spese forse pazze, si ipotizza pazze, sempre nelle regioni, in questo caso Regione Lombardia. Ora la Guardia di Finanza, dopo essersi occupata delle spese delle forze politiche di maggioranza, si concentra su quelle di minoranza, PD, IDV, SEL in Regione Lombardia. Anche qui, come vedremo tra poco dai giornali, qualcosa che ci farà tenere sempre le mani ben salde sul volante. Ma andiamo appunto a sfogliarli questi giornali in edicola. Mercoledì 9 gennaio,

non le userà mai, né ora né una volta eletto. Senta, intanto il fatto che io ho chiesto come condizione essenziale di non candidarmi in Sicilia, dove ho esercitato con maggiore profondità la mia azione di procuratore, essendo stato per 12 anni sostituto procuratore, poi ho fatto il giudice del maxi processo, poi ho fatto per 6 anni il procuratore capo della Repubblica a Palermo, quindi avendo anche inchieste che hanno lambito la politica, proprio per questo io ho chiesto di non andare candidato in Sicilia, primo punto. Secondo punto, le informazioni che si hanno da un ufficio come quello che occupavo io, cioè la Procura Nazionale Antimafia, sono delle informazioni intanto di indagini che fanno gli altri ai fini soltanto di coordinarle. E in ogni caso il vantaggio è l'esperienza che si ha nei fenomeni, nell'analisi dei fenomeni, per cui si vedono i fenomeni appunto criminali e le influenze sulla società, sulla politica, sull'economia in maniera globale. Questo ti dà la possibilità di intervenire per combattere meglio i fenomeni, quindi secondo me è un valore aggiunto. E poi io penso che sia meglio un magistrato che una pornostar o un condannato per reati infamanti. Non dimentichiamo che dal Parlamento escono 95 indagati, speriamo che non ne ritornino altrettanto. Ecco, alcuni di questi indagati però sono anche considerati da alcuna parte della stampa impresentabili e sono anche nel Partito Democratico. Il Fatto Quotidiano per esempio si è concentrato su alcune persone che o hanno indagini o hanno magari anche delle condanne o delle prescrizioni. Lei non si sente in imbarazzo ad essere nello stesso partito? Guardi, io ho posto la questione anche all'interno del partito e quindi si sta esaminando, anche se io sono appena arrivato e diciamo ci sono delle cose che però differenziano il PD dagli altri partiti. Intanto ha fatto una consultazione democratica e è venuto fuori il consenso del democratico del territorio, e questo non è certamente un dato trascurabile. Secondo, tutte le persone entrano perfettamente, ma comunque ci sarà una commissione di garanzia che è presieduta da Luigi Berlinguer che deciderà poi in questi giorni, in questi 10 giorni prima della presentazione ufficiale delle liste, e in questo certamente applicando sia la legge sull'incandidabilità sia il codice etico del PD, che è molto più rigoroso in tanti punti rispetto alla legge, perché per esempio già basta il rinvio a giudizio e per certi reati. Allora, applicando questi due criteri e volendo applicare anche altri criteri, per esempio come quelli, i criteri più restrittivi che ci sono per gli enti locali, per le elezioni comunali per esempio, si potranno bloccare. Questi criteri si potranno valutare, però, e eventualmente eliminare le persone. Questo che... sì, però mi faccia fare un esempio concreto di cui si è parlato. In Sicilia è stato nominato alle primarie, ha ottenuto molti voti Vladimiro Crisafulli. Senta, io non vorrei fare casi concreti. Persone, casi concreti, mi lasci almeno questo. Però ci sono alcune, allora togliamo il nome. Togliamo il nome, ci sono delle persone. Lei comunque. Se mi consente. Siccome ci sono delle persone che hanno delle condanne, lei comunque dice verrà tutto risolto in fase di. Persona per quelle cose ha avuto. Ma il problema, vede, è che la politica deve fare qualcosa in più, secondo me. Nel senso che va bene la regola. Va bene la legge, che è una garanzia per tutti, perché uno potrebbe dire no, sente, con la legge che c'è purtroppo è una scelta, no? Allora uno potrebbe dire quello mi è antipatico, non lo candido. Io penso che l'elettorato passivo sia anche un diritto costituzionalmente garantito, quindi delle regole bisogna comunque porle, anche più severe, più rigorose rispetto a quelle che sono nella legge nazionale. Però lei ha visto, ma è chiaro che deciderà, diciamo, no, poi. No, ma voglio dire, è un problema di fare un salto da parte della politica, dire non c'è l'opportunità politica di candidarsi. Perfetto. Bene, questo da che cosa deriva? Dal fatto che al sud soprattutto ancora non c'è un superamento culturale e politico di un certo tipo di fare politica. Ma quindi lei magari al segretario Bersani, non lo dirà certo nel radio, ma non è che magari ha detto: guarda che caro segretario, a queste persone, alcune persone, anche se hanno ottenuto alle primarie tanti voti, forse non è il caso che ci stiano nel nostro partito. Sì, questa però, ripeto, è una scelta solamente politica, quindi non è certamente una scelta giuridica. Io sostengo e sono in politica proprio per questo, perché mi piacerebbe che la politica potesse fare questo salto in avanti, questo balzo in avanti. Però c'è da considerare che mentre tutti gli altri partiti nel chiuso delle loro segreterie ti comunicheranno a cose fatte sostanzialmente, il PD ha questo grande merito di avere fatto tutto in massima trasparenza. I casi tutto sommato sono sulle punte delle dita di una mano, insomma non sono, e verranno sono comunque molti di più, affrontati. E però ha fatto, sì, e però l'ha affrontato con trasparenza e democraticamente. Non credo che tutti gli altri partiti, applicando le stesse regole, possono candidare molte delle persone di cui si parla, perché ancora non si sa con sì, certo. Senta, le chiedo questo, tanto lei smentirà il fatto che è ipoteticamente un possibile futuro ministro della giustizia, però al di là di questo, lei... Ma certo, intanto io vado in politica certo. Perché ho un alto senso della politica, nel senso che... No, però mi dica cosa farebbe, cosa farebbe ipoteticamente la prima cosa da fare per riformare il sistema giustizia, o le prime tre cose da fare per riformare la giustizia intanto seriamente. Riformare la legge elettorale, che insomma, la legge elettorale. Che il PD ha trasformato applicandola in maniera democratica sul territorio, cosa che gli altri partiti non hanno fatto. Quindi questo è un grande merito di questo partito, che mi ha anche consigliato di stare in un partito con un pluralismo di base e con una democrazia vissuta, non solamente urlata. E sulla giustizia urlata. Invece? Sulla tema giustizia? Sulla giustizia le prime leggi da fare, per la giustizia bisognerebbe fare un programma che dovrebbe durare tanti anni, nel senso che ci sono delle cose urgenti, delle cose a media scadenza e delle cose a lunga scadenza. Innanzitutto abbiamo detto più volte l'ho detto in audizioni in commissioni parlamentari antimafia, in commissioni giustizia, Senato, Camera, ho chiesto tante cose per migliorare la lotta alla criminalità e alla legalità più in genere, perché quando parliamo di criminalità poi organizzata, alla fine poi si ripercuote sull'economia e poi è un discorso molto più ampio. Quindi prima cosa, autoriciclaggio, falso in bilancio, prescrizione, false fatturazioni, cioè rivedere leggi, scambio, una legislazione nuova su questi la temi. La corruzione va anche rivista, perché ho sempre detto, l'ho detto anche pubblicamente, che questa legge è stata certamente un grande passo in avanti nel riconoscere alcune figure di reato che prima non c'erano, però ancora non pensiamo che sia il toccasana per risolvere il grave problema della corruzione. Ha visto in invece poi l'evasione fiscale, scusi, un reato di frode fiscale più incisivo, mi pare che sia una cosa che tutti i cittadini si aspettano, perché non è possibile che solamente due terzi dei cittadini che sono pensionati, dipendenti o che non possono assolutamente sfuggire alle tassazioni, paghino per quegli altri un terzo dell'economia sommersa che sfugge completamente a qualsiasi tassazione e toglie delle risorse al paese. Beh, sta dicendo che i dipendenti non possono evadere mentre evadono, che ne so, quelli che hanno... I liberi professionisti. Cioè i liberi professionisti sono evasori. Le società, ecco perché il falso in bilancio diventa uno strumento, un grimaldello per scoprire anche le corruzioni, le tangenti. Però dottor Grasso, cioè lei dice che i liberi professionisti e le società, gli imprenditori sono evasori, possibilmente evasori, no, mentre i dipendenti no. E mi pare che lei, se ha uno stipendio, non può evadere. È più difficile, questo sì. Poi bisogna anche culturalmente far capire che l'evasione non è essere furbi. l'evasione è un reato, perché metti le mani nelle tasche degli altri cittadini che pagano per te dei servizi di cui comunque godono. Senta, e questo è un problema di giustizia sociale. Dottor Grasso, le devo chiedere questo. Lei lo sa che c'è stato il famoso giallo, tra l'altro, con i nostri amici Cruciani della Zanzara sulla questione del famoso, no, il famoso premio, il famoso premio a Berlusconi. No, ma lei questo premio a Berlusconi forse si è avventurato a dire una cosa sulla quale un po' si è pentito. Lo darebbe o no sto premio a Berlusconi? Io invito tutti a sentire la registrazione della Zanzara che si trova su YouTube, sì, si trova comunque dovunque. Ha avuto un grande successo quella trasmissione proprio per questo. Guardi, le racconto un aneddoto. Proprio il 23 maggio scorso mi trovavo sul palco davanti Casa di Falcone, sì, l'albero Capaci, Falcone, certo. Anniversario di Capaci. E mentre ero lì facendo un discorso anche importante, serio, di commemorazione e commovente, poi si avvicinò una persona di mezzo, una persona anziana, proprio sotto il palco, con aria come se voleva quasi una giustificazione, disse: ma senta, ma perché ci ha dato questo premio a Berlusconi? Ma perché gli ha dovuto dare questo premio a Berlusconi? Cioè, io ho detto così, sbrigativamente, guardi che io non ho dato nessun premio. Però io ho l'onestà intellettuale di riconoscere, quando mi si chiede, cosa di buono si è fatto. Immediatamente, se si sente la registrazione, si sentono tutte le cose, le critiche che io ho fatto a un a tutta la politica. Quindi dice: ha fatto qualcosa di buono, ma poi ha fatto anche non ha fatto tante cose. La parola era la frase: allora gli diamo un premio? E certo, ho detto, ma per questo sì, perché effettivamente attraverso il ministro Alfano, il ministro della giustizia, abbiamo avuto delle leggi che ci hanno consentito di sequestrare qualcosa come 40 miliardi di euro di beni mafiosi in 4 anni. Cioè, voglio dire, abbiamo fatto un salto sotto questo profilo. Io ho l'onestà intellettuale di riconoscere. Poi per il resto ho criticato il codice antimafia, ho criticato la legge sulle intercettazioni che è stata bloccata, ho criticato tutta una serie di... Sì, insomma, dice per alcune cose buone e poi ha criticato. Senta, io la devo ringraziare e salutare. No, perché Berlusconi ha detto: stimo Piero Grasso, ancora l'altro. Cioè, lei lo stima Berlusconi? Guardi, io speravo di entrare nei suoi incubi, ma in effetti sarà difficile in questo caso. Ma comunque, diciamo che questo non credo che possa influire più di tanto. Ci sono persone che si stimano oppure no, e poi la domanda che viene fatta è paragonando con altri, paragoni che io non voglio fare. Non vuole fare. Intanto la ringrazio, buona giornata, ovviamente in bocca al lupo per la corsa alla campagna elettorale. Piero Grasso, candidato per il Partito Democratico, capolista in Lazio al Senato, ex procuratore nazionale antimafia e anche procuratore capo a Palermo, insomma una vita in magistratura. Allora, noi ci concentriamo tra 3 minuti sulle spese della regione Lombardia. Questa volta la Guardia di Finanza si concentra sulle spese dell'opposizione, dopo essersi concentrato su quelle della maggioranza. Anche qui, insomma, dai giornali si scoprono alcune spese un pochino così. Con noi ci saranno il capogruppo di SEL alla Regione Lombardia e il capogruppo del PD Regione Lombardia tra pochissimo. 24 mattino. E allora siamo qua, sono le 8:33, se volete intervenire in diretta 800 24 00 24. Dopo aver avuto Piero Grasso, ex procuratore nazionale antimafia, ci concentriamo allora sulle spese, i rimborsi della Lombardia. Questa volta la Guardia di Finanza ha acquisito tutti gli scontrini, le fatture, e già si legge qualcosa sui giornali dell'opposizione, soprattutto l'opposizione in Lombardia, PD, SEL, IDV, UDC. Voglio salutare il capogruppo di SEL, Chiara Cremonesi, in Lombardia. Buongiorno e benvenuta, eccoci qua. Buongiorno a tutti, buongiorno. Saluto anche il capogruppo del PD, Partito Democratico, Luca Gaffuri. Buongiorno Gaffuri, eccoci. Buongiorno a tutti. Allora, c'è da dire che, già sul colore andiamo, qualche giornale racconta per esempio di rimborsi di libri. Il migliore è stato, adesso me lo son perso, ma c'è il consigliere, aiutatemi, che si è fatto rimborsare il libro, e lo vorrei chiedere a Gaffuri perché è del suo partito, no? Partito Democratico, il libro... I primi due anni in come consigliere regionale, Carlo Borghetti. È così, Gaffuri? Cioè, questo sì, innanzitutto non si parla di rimborso, ma praticamente di una sostenuta da parte del gruppo per rendicontare, per stampare un libro. Sì, ma cioè, la fattura comunque è pervenuta al gruppo, non c'è stato un trasferimento di denaro al consigliere. No, questo no, cioè ha scritto, ha fatto stampare un libro i due primi anni, i miei due primi anni da consigliere regionale. Sì, ha rendicontato l'attività dei primi due anni di attività di consiglio regionale. E perché una spesa del genere la deve sostenere il gruppo e quindi con rimborsi che sono destinati al gruppo e non personalmente il consigliere? Perché le risorse che vengono trasferite comunque ai gruppi servono comunque per l'attività dei gruppi consigliari, ma allo stesso tempo anche per far conoscere le iniziative che i consiglieri portano avanti. Però capisce che, voglio dire, cioè io come cittadino, se voglio informarmi di quello che fa il consigliere Carlo Borghetti, o seguo i consigli regionali o mi informo sui giornali, cioè ci sono 9.000 e rotti euro per stampare questa relazione. Utilizzate di soldi pubblici, per carità, poi uno può dire possono essere pochi, tanti, magari sono cifre che sono, ci sono state cifre molto più alte, ci sono cifre molto più alte, però è il principio che non mi sfugge un pochino, Gaffone. Io ritengo che comunque questo rientra comunque nella legislazione che Regione Lombardia ha, in cui questi fondi sono comunque destinati ai gruppi, da una parte per far conoscere appunto la propria attività e dall'altra parte per fare in modo che i gruppi consigliari possano svolgere al meglio l'attività di carattere legislativo. Sì, ma questo ce l'ha già detto, ma non ho, cioè con questo rientra tutto il discorso che si fa una cena in 30, magari per mantenere rapporti col collegio, e si fa pagare questa cena al gruppo, che poi siamo sempre noi. Cioè noi cittadini, soldi della regione, soldi pubblici, cioè con questo è invalso il modo di utilizzare dei soldi pubblici per fare un po' tutto, cene con 30 persone, regali ai dipendenti, cioè voi siete sicuri che dal punto di vista della procura non ci sarà nulla da contestare? No, allora io dico, lei mi ha fatto questo tipo di casistica, ritengo che sia una casistica che rientra comunque tra le finalità della legge di Regione Lombardia. Perché voi non avete messo a disposizione direttamente alla procura tutti gli scontrini? Sono venuti a chiedere, mentre credo i DV e SEL, adesso ce lo dirà la responsabile di SEL, ha messo spontaneamente a disposizione tutte le spese. No, non mi risulta che sia così. Prima di Natale è stata fatta una richiesta ufficiale a tutti i gruppi di minoranza di mettere a disposizione la documentazione, di farne copia autentica, e proprio ieri è stata consegnata la documentazione da parte di tutti i gruppi di minoranza alla Guardia di Finanza per poter verificare l'attinenza delle spese sostenute. Allora, io vorrei sentire anche Chiara Cremonesi. C'è da dire che è vero, poi si può distinguere le cifre, eccetera. Come SEL vengono contestate alcune spese, credo anche per alcuni omaggi floreali. Il giornale credo che oggi titolasse in maniera molto dura, a dire 1.600 rotti euro per spese di fiori per la festa delle donne. Che succede nelle regioni? Non è che nelle regioni, Chiara Cremonesi, si annida il vero spreco, non nelle province, non in altre parti dello Stato? No, io penso che bisogna essere molto rigorosi con le risorse pubbliche e quindi analizzare bene le spese una per una. Però proprio per questa ragione, se si analizzano le spese una per una, si fanno anche distinguo, e forse è quello che io vorrei rimproverare un po' anche ai mezzi di comunicazione in questi giorni, anche perché SEL ha messo a disposizione i suoi bilanci anche ai mezzi di comunicazione, non solo alla Guardia di Finanza, e però poi il trattamento è quello che appunto abbiamo comprato gli omaggi floreali. Per quel che riguarda il titolo del giornale, che io non ho ancora letto l'articolo, ma non si riferisce evidentemente a noi, abbiamo dalle nostre spese una piantina da 25 euro. Sì, l'orchidea, è la famosa orchidea. Ormai famosissima. Ma perché uno si deve far rimborsare dall'orchidea? No, ma io però, siccome la rivendico quella spesa, gliela vorrei anche spiegare. L'ha fatta lei addirittura? Siete in due, se non sbaglio, di SEL adesso, lei e Giulio Cavalli. Io e Cavalli. Allora, questa spesa non è stata rimborsata a me, noi abbiamo, essendo un gruppo anche molto piccolo, abbiamo una serie di collaborazioni volontarie, cioè di esperti a cui non siamo in grado di fare dei contratti di consulenze perché non abbiamo le risorse necessarie, ma che si prestano comunque ad aiutarci per studiare sì. testi di legge, elaborare testi sì. di legge. E allora io mi sono sentita di regalare ad una persona che ci aveva aiutato a lavorare su una legge importante un'orchidea. È un gesto invece, bellissimo. È un no, non è un gesto, no, un gesto non è un gesto bellissimo. Io avrei potuto fare un contratto di consulenza e nessuno mi avrebbe detto nulla, giustamente. Però Cremonesi, mi scusa, mi scusi, avrebbe potuto fare una cosa ulteriore, regalare, che è un gesto bello, a una collaboratrice un'orchidea pagandola. Ma non è che la vogliamo mettere in croce, no, per 25 guardi, euro, però, per carità. Cioè, se io voglio regalare a Miriam Lucchetti, una delle mie collaboratrici, Elisabetta Fusconi, un omaggio floreale, apro il portafogli e lo faccio. Guardi, da questo punto di vista io non avrei nessun problema. Le due piante che ho in ufficio, e può venire anche a controllare, le ho pagate dal mio portafoglio, sono delle piante comprate all'Esselunga, un po' rinfrecchite anche perché non le sto curando molto, ma il problema è che non era mi lasci finire, perché il problema non è il mio regalo personale alla persona che ha aiutato il gruppo a fare un lavoro. Il problema era quello di un riconoscimento collettivo che non poteva essere quello di un contratto di consulenza. Sì. E questo io non ho usato risorse, credo, in modo improprio, proprio per questa ragione. No, lei rivendica il fatto di dire: avrei potuto addirittura, e nessuno avrebbe potuto di imminente, dare un contratto di consulenza magari da 600-700 euro al mese per un certo periodo. Però in questo modo, in qualche modo, conferma che si annidano nelle leggi, nelle possibilità di, ecco, uso questa parola molto tra virgolette, di rubare molti soldi pubblici. Cioè ci sono delle leggi molto, molto lassiste, mi pare di capire, no, Cremonesi? Cioè lei avrebbe potuto dare un contratto di consulenza a una persona usando fondi pubblici. Questo succede nelle leggi. Ma questo la scandalizza? Cioè, secondo lei, i gruppi che devono legiferare in una regione come fanno a produrre e analizzare una mole importante di lavoro? Attraverso anche delle collaborazioni, delle consulenze. Questo non mi sembra una cosa che da scandalo o da dei problemi di legalità, nel modo più assoluto. Di legalità perché... no, forse però si è abusato un po' troppo di questo strumento. Anche le consulenze, se qualcuno parla di 2 miliardi di euro l'anno di tutta Italia, insomma, di consulenze, quanto costano le consulenze poi alle istituzioni? Guardi, in Regione Lombardia però, se posso permettermi, funziona in modo un po' diverso perché, noi non abbiamo del personale quando veniamo eletti che, a differenza di altre regioni, che il Consiglio ci mette a disposizione. Il personale è tutto, come si dice, assunto dai gruppi che appunto con le risorse che hanno a disposizione possono fare le scelte rispetto ai tipi di contratti e rispetto alle consulenze da mettere in campo. Ma guardi che questo però, rispetto al rapporto con il cittadino, poi si può discutere di abbassare le cifre o di controllare in maniera più stringente, ma dal punto di vista del rapporto con il cittadino, io credo che il cittadino voglia sapere che ci sono delle persone in grado di curare l'attività istituzionale, perché noi siamo stati eletti per questa ragione. Questo sì, cioè si tratta di capire se curare... Noi abbiamo 8 commissioni, abbiamo delle materie sulle quali fare leggi, non... semplicemente delibere o altri atti amministrativi. No, ma si tratta di capire sempre se far conoscere il proprio lavoro istituzionale, che è importante, sia anche, per esempio, leggo da alcuni articoli, non so, spendere, ecco, era più che altro il PD, non lei l'orchidea, ma invece 100 euro in mimoso, 615 euro per un pranzo per la festa della donna, e poi insomma decine di spostamenti in taxi, pranzi, eccetera. Fatemi sentire, però, siamo con Chiara Cremonesi, capogruppo di SEL in Lombardia, e Luca Gaffuri, che è capogruppo del PD. Sempre in Lombardia, fatemi sentire gli ascoltatori anche 800 24 00 24. Pino da Pescara, buongiorno. Buongiorno Milan, stasera la penserò intensamente. Perché? Perché? Dice Juventus Milan, quindi va benissimo. E lei a chi comunque tiene? A parte questa parentesi, no, no, io tifo per la Juve. Vabbè. A parte questa la faccio parentesi. Parlare comunque, dica. È una parentesi abbastanza frivola per il nervoso che ho addosso per questo argomento, nel senso che un consigliere regionale quanto prende al mese? Io non so neanche cosa quanto possa essere. Adesso, 22. No, non esageriamo, glielo chiediamo. Adesso ne abbiamo due, credo sui 10-12 mila, però è un bello stipendio. All'incirca. Quanto cremonesi? Quanto? 9 mila euro, Pino. Allora, se io fossi, se io dovessi stampare un libro con un editore, già trovare un editore che mi possa stampare un libro, penso che sia difficilissimo, dovrei pagarlo io. Quindi comunque sono soldi pubblici, sono soldi di chi paga le tasse, quindi un consigliere che prende 9.000 euro al mese io penso che possa fare anche una dilazione di un pagamento per una stampa, la stampa di un libro, non farsi rimborsare questi soldi. Ma dice il capogruppo del PD Gaffuri che non è un libro qualsiasi, era un libro per far conoscere, i miei primi 2 anni da consigliere regionale, quindi era un libro per far conoscere l'attività da consigliere, quindi rientra nelle spese per farsi conoscere sul territorio. Sappiamo quello che fanno e cosa sappiamo cosa fanno e conosciamo cosa fanno tutti i gruppi. Io sono di sinistra, però a questo punto nessuno fa un mea culpa di dire abbiamo sbagliato e scusate, adesso cambiamo idea, cambiamo tutto. Cioè qui non sento nessuno che dice abbiamo sbagliato, sono tutti dentro un altro mondo irreale che loro non sanno cosa significa vivere con 1.100-1.200 euro al mese. Grazie Pino, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi c'è Massimo dalla provincia di Monza e Brianza che non è stato ancora cancellato e quindi è lì, e poi con i nostri ospiti Luca Gaffuri e Chiara Cremonesi. Allora, le spese dell'opposizione, Regione Lombardia, ora nel mirino della Guardia di Finanza, dopo che qualche tempo fa le spese della maggioranza invece sono già entrate nel mirino con numerosi indagati. Sentiamo Massimo allora dalla provincia di Monza e Brianza, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Senta, io volevo dire che, guardi, sono un elettore del PD, milito tra l'altro anche nel PD, per cui mi rivolgo in particolare a Gaffuri, che è il capogruppo del mio partito. Io, guardi, io nelle giustificazioni che lui giustamente apporta, volevo soltanto chiedergli di non barricarsi dietro la semplice rispondenza alla normativa di Regione Lombardia. C'è stato credo che ci sia stato un modo di comportarsi invalso, anche non percepito probabilmente come modo sbagliato, ingiustamente. Bisogna avere anche un minimo di onestà intellettuale nel dire guardate, si faceva così, abbiamo sbagliato. È stato sbagliato. Stia con noi Massimo, stia qui, non metta giù. Gaffuri vuole rispondere, perché giustamente lei dice dal punto di vista della legge è tutto a posto, siamo sicuri che la procura troverà questo come istituzionale, avere stampato per esempio questo libro e farlo rimborsare al gruppo. Però le dice questo esponente del Partito Democratico, non trinceriamoci, non trinceratevi dietro a quello che si può fare in base alla legge, cioè dite magari è stata una cavolata una cosa del genere, o no, Gaffuri? Ma io ritengo che alla fine bisogna svolgere un ruolo comunque di minoranza all'interno di un consiglio regionale, questo comporta comunque svolgere un'attività di controllo della maggioranza, avere gli strumenti per informare i cittadini delle cose che non vanno, e questo lo facciamo attraverso il blog, lo facciamo attraverso il sito, lo facciamo attraverso applicazioni, lo facciamo attraverso convegni, eccetera. E dall'altra parte per far conoscere appunto le proposte come gruppo elaboriamo. Ho capito, ma il blog e il sito, cioè prendete magari una persona che collabora e scrive queste cose, ma stampare un libro, oppure, mi scusi, guardi, vedo adesso le spese della festa dell'8 marzo, effettivamente sono il Partito Democratico, cioè 960 euro per comprare ai 24 dipendenti un cadeau. Forse anche delle mimose, evidentemente dei dipendenti donne, era strettamente necessario? Io ritengo che su questo si possa fare una valutazione, nel senso che ovviamente non è una cosa necessaria. Ecco, cioè, perché? Questo lo posso dire con chiarezza, si è ritenuto, come avviene normalmente anche in un'azienda, che in alcuni momenti dell'anno venisse dato un riconoscimento. Ma comunque, certo, ma questa è un'azienda pubblica, Gaffuri, cioè è un'azienda pubblica, sono soldi della gente, sono soldi nostri, cioè non siete un'azienda privata in cui utilizzate 900 euro, 100 euro o un euro per fare regalare una mimosa a una dipendente perché il mio amministratore delegato regala alle dipendenti di Radio 24 una mimosa, ma è un'azienda pubblica, cioè è la Regione Lombardia. Guardate, se posso, scusatemi, sì, se posso Massimo intervenire, io sì volevo soltanto dire che probabilmente, ripeto, io credo che ci sia una profonda differenza tra l'essere inquisiti per aver fatto delle spese e l'averlo fatto in modo regolare, ma oggi oggettivamente non giustificabile. Non giustificabile, cioè, sì, dice Massimo, dal sentimento popolare, della esatto gente che non cioè, ne può più. Sì, non ne era può sicuramente più. Era probabilmente una spesa regolare, quindi non si può essere inquisiti per quella spesa, ma oggettivamente non si doveva fare. È stato un errore, giustificabile quanto vogliamo. Diciamo che è molto diverso dall'essere inquisiti per aver fatto delle spese per comprarsi il SUV, per dire ma la per cosa carità, più, ma questo più, questo più sì importante che si è sentita negli ultimi tempi, ma che si può fare un minimo di mea culpa e dire guardate, è stato un errore giustificato da mille motivi, ma basta, queste spese non ci saranno più. Io personalmente auspico che il PD nella prossima legislatura annulli completamente i rimborsi. Ma guardi, non lo può fare il PD, io mi auspico, caro Massimo. Se saremo maggioranza sì potremo di sicuro. Dice lei Gaffuri. Guardi, io mi auspico invece, l'ho detto tante volte, l'unico modo, siccome secondo me tutto questo è legale, cioè norma di legge reggerà e quindi la procura non troverà nessun tipo di reato, neanche per il SUV forse, io mi auspico che vengano azzerati, devono essere portati, abbassati a possibilità di rimborsi elettorali, a rimborsi ai gruppi, zero, quella cifra tonda di Giotto, zero, così non c'è il rischio che nessuno compri neanche mezza mimosa. Sentiamo Giovanni da Milano, buongiorno. Giovanni, buongiorno, guardi, io credo che però stiamo un po' cercando di fare di tutto un'erba un fascio, sinceramente due cose volevo dire soltanto. Dal primo punto di vista, se c'è una norma è a quella che uno si deve attenere. Infatti, infatti è quello che ho detto, che non troveranno nessun reato, non troveranno nessun reato. Non ci e sarà. La seconda cosa penso che sia ancora più importante, io non credo che si possa normare tutto quanto, cioè ci deve essere un principio di base e poi dopodiché bisogna verificare se uno si è attenuto o meno al principio. Guardi, di base. Guardi, sa quale sarebbe per me, che, Giovanni? È giusto che un dirigente abbia un minimo di margine di manovra, cioè se vuole fare delle spese avrà un minimo di discrezione, altrimenti è un mero esecutore che fa esattamente A, B, C che gli viene. Ma mi scusi, Giovanni, le risulta, i consiglieri regionali hanno degli stipendi, i capogruppo hanno degli stipendi maggiorati perché sono capi gruppo. Con quello stipendio facciano quello che vogliono, nel senso paghino le mimose, paghino i fiori, paghino le cene. Non è che dico che uno, se deve fare una cena di Natale con 50 persone, deve pagare lui, o se no non fa la cena di Natale. Io metterei, caro Giovanni, a zero, ma questa è la mia opinione personale. Non so, Chiara Cremonesi, lei è disposta a dire dovrebbero essere zero i rimborsi dei gruppi parlamentari, perché parlamentari o regionali, perché già abbiamo i soldi dello stipendio? Cremonesi. Parla delle spese di rappresentanza che sì oggi sono consentite dalla legge e che ad esempio noi come SEL non abbiamo praticamente utilizzato, ma che è possibile fare, io le posso dare ragione, cioè secondo me su alcune voci si può arrivare a zero, ma attenzione a non ridurre a zero quella che è l'attività istituzionale dei gruppi, perché su questo io farei una bella differenza e lo dico, io spero anch'io di essere in maggioranza tra poco. Il problema sta soprattutto nelle opposizioni che hanno il bisogno di fare anche il volantino, il manifesto, il blog. Ma il volantino, infatti, anche il libro per far capire ai cittadini. Anche il libro. Perché guardi, il cittadino non va mica a leggersi il burl della regione, il bolla, la gazzetta. Ma il cittadino, magari, ma se il cittadino magari accoglierebbe in un comitato locale il politico che deve usare le gambucce e andare a spiegare che cosa sta facendo la Regione Lombardia. Guardi, per quel che mi riguarda io faccio anche questo praticamente tutte le sere, ma le assicuro che non basta. Lei sa meglio di me che ormai i territori sono vastissimi, la gente tende ad informarsi anche poco e quindi io sono d'accordo con lei di arrivare a zero su alcune spese che sono quelle che possono sembrare più discrezionali, sì. Ma attenzione a non ridurre la capacità di fare bene il proprio mestiere, perché però guardi, a questo punto costa meno non avere un consiglio regionale, eh? Guardi, non la dica troppo ad alta voce, no, mi devo fermare se no sforo, non la dica troppo ad alta voce che molti cittadini poi ci credono sul serio. Vi ringrazio, Luca Gaffuri, capogruppo al PD alla Regione Lombardia, e Chiara Cremonesi, capogruppo di SEL, con Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti, Alessandro Longoni e il nostro Peter Bescapè. Vi diamo l'appuntamento a domani alle 6:30.